Capitolo 27. Dove te ne vai, tutta in gingheri, Anna? Volle sapere Davy. Ti sta proprio bene quel vestito, sei uno schianto. Anna era scesa a colazione con un vestito nuovo di mussolina verde pallido, il primo abito colorato che indossava dalla morte di Matthew. Le donava molto, giacché faceva risaltare le tinte delicate come un petalo di fiore del viso e la lucentezza e il brillio dei capelli. Davy, quante volte ti ho detto che non è questo il modo di esprimersi? Lo rimbrottò lei. Vado alla casa dell'eco. Oh, portami con te, la supplicò Davy. Se andassi con il calesse ti porterei, ma ho intenzione di camminare ed è un tragitto troppo lungo per le tue gambe di 8 anni. Inoltre Paul viene con me e temo che tu non abbia molto piacere a stare in sua compagnia. Oh, Paul mi è molto più simpatico di prima, disse Davy, cominciando a intaccare pericolosamente il suo budino. Da quando sono diventato abbastanza buono, non me ne importa più se lui è più buono di me. Se ce la faccio, un giorno o l'altro lo raggiungo, sia come gambe sia come bontà. E poi Paul è proprio carino a scuola con noi della seconda. Non permette agli altri ragazzi grandi di mischiarsi e ci insegna un mucchio di giochi. Come mai Paul è caduto nel torrente ieri, verso mezzogiorno? Chiese Anna. L'ho incontrato al campo di gioco talmente gocciolante che l'ho spedito subito a casa a mettersi degli abiti asciutti senza chiedergli che cos'era accaduto. Beh, in parte è stato un incidente, spiegò Davy. Lui ha cominciato con l'infilarci la testa apposta, ma tutto il resto è accaduto per caso. Eravamo giù al ruscello e Prilly Rogerson era furiosa con Paul, non so per che cosa. È terribilmente meschina e antipatica, anche se è carina. Così ha detto che la nonna gli metteva i bigodini ogni sera. Paul non avrebbe fatto caso a quello che diceva. Io penso, ma Gracie Andrews ha riso e allora Paul è diventato tutto rosso perché Gracie è la sua ragazza, capisci? È completamente partito, capisci? Le porta fiori e le regge la cartella fino alla strada della spiaggia. Paul è diventato rosso come un peperone e ha detto che sua nonna non si sognava di fare una cosa simile, che lui aveva i capelli ondulati per natura. E poi si è sdraiato sull'argine e ha ficcato la testa nella corrente per farglielo vedere. Oh, non è la sorgente da cui prendiamo l'acqua potabile, aggiunse Davy vedendo uno sguardo preoccupato in viso a Marilla. Era la sorgente più piccola giù in basso, ma l'argine era terribilmente scivoloso e Paul è caduto dentro. Vi assicuro che ha fatto uno splash da sballo. Oh, Anna, scusa, non volevo dirlo, mi è scappato senza pensarci. Ha fatto un magnifico tonfo, ma era così buffo quando è strisciato fuori tutto bagnato e pieno di fango. Le ragazze hanno riso più che mai, ma Gracie no, non ha riso. Sembrava dispiaciuta. Gracie è una ragazza carina, ma ha il nasino all'insù. Quando sarò grande e avrò una ragazza, non la voglio con il naso all'insù, la voglio con il naso come il tuo, Anna. Un ragazzo che si riduce in quelle condizioni, tutto sporco di sciroppo quando mangia il budino, non avrà mai una ragazza che lo guardi, disse Marilla severamente. Ma prima di andare a fare la corte mi laverò la faccia, protestò Davy, cercando di migliorare le cose, strofinandosi il dorso della mano sul viso impiastricciato. E mi laverò anche dietro le orecchie, senza che nessuno me lo dica. Stamattina me ne sono ricordato, Marilla. Non me lo dimentico più la metà delle volte, come facevo prima. Ma, e Davy sospirò, sono tante le difficoltà per un poveraccio che uno non può ricordarsele tutte. Beh, se non posso andare dalla signorina Lavendar, andrò a trovare la signora Harrison. La signora Harrison è una donna proprio gentile, ve l'assicuro. Tiene nel tinello una scatola di biscotti apposta per i bambini e mi lascia sempre raschiare la terrina dove ha mescolato il plum cake. Ce ne rimane sempre una bella quantità, sapete? Il signor Harrison è sempre stato simpatico, ma è il doppio più simpatico da quando si è sposato di nuovo. Penso proprio che la gente diventi più simpatica quando si sposa. Perché non ti sei sposata tu, Marilla? Voglio saperlo. La beata condizione di nubile di Marilla non era mai stata un punto dolente per lei, sicché rispose amabilmente, dopo aver scambiato con Anna degli sguardi significativi, che immaginava fosse perché nessuno l'aveva voluta. Ma forse neanche tu l'hai mai chiesto a nessuno se ti voleva, protestò Davy. Oh, Davy! disse Dora, tutta compunta e già scossa per aver avuto l'ardire di parlare senza essere interpellata. Sono gli uomini che devono chiedere. Non capisco perché devono essere sempre loro a farlo, borbottò Davy. A me sembra che a questo mondo tocchi agli uomini fare tutto. Posso avere ancora un po' di budino, Marilla? Ne hai già avuto quanto basta, disse Marilla, ma gliene servì una seconda porzione con moderazione. Vorrei che la gente vivesse di budino. Perché non può, Marilla? Perché se ne stancherebbe presto. Mi piacerebbe che fossi io a provare, ribatté Davy. Ma mi sa che è meglio avere il budino quando ci sono ospiti che non averlo per niente. Da Milty Boulter non lo mangiano mai. Milty dice che quando ci sono visite sua madre gli dà il formaggio e lo taglia lei stessa un pezzettino per uno e uno in più per buona creanza. Se Milty Boulter parla in questo modo di sua madre, potresti almeno fare a meno di ripeterlo, disse Marilla severamente. Bontà divina! Davy aveva preso quell'espressione dal signor Harrison e la usava con gran gusto. Milty intendeva farle un complimento. È terribilmente fiero di sua madre, perché la gente dice che sarebbe capace di cavar da vivere da una pietra. Io, ecco, credo che quelle dannate galline si siano di nuovo infilate nella aiuola delle violette, disse Marilla alzandosi e allontanandosi in tutta fretta. Le povere calunniate galline non erano affatto nell'aiuola delle violette e Marilla non andò nemmeno a guardare, sedette invece accanto all'uscio della cantina e rise fino alle lacrime. Quando Anna e Paul giunsero alla casetta di pietra quel pomeriggio, trovarono la signorina Lavender e Carlotta IV nel giardino, intente a strappare le erbacce, a rastrellare, a potare e a ripulire come se ne andasse della loro vita. La signorina Lavender, in persona, tutta allegra e dolce in una nuvola di trine di merletti, l'abbigliamento che preferiva, lasciò cadere le cesoie e corse tutta felice incontro ai suoi ospiti, mentre Carlotta IV sorrideva beata. Benvenuta, Anna, benvenuta. Pensavo che saresti venuta oggi. Tu fai parte del pomeriggio e il pomeriggio ti ha portata qui. Quando le cose stanno bene insieme, arrivano insieme. Quanti guai si risparmierebbe certa gente se lo sapesse. Ma non lo sanno e così sprecano grandi energie a smuovere cielo e terra per far stare insieme cose che non stanno bene insieme. E tu, Paul, perbacco come sei cresciuto. Sei di mezza testa più alto di quando sei venuto qui la prima volta. Sì, ho cominciato a crescere come l'amaranto di notte, come dice la signora Lind, fece Paul palesemente soddisfatto. La nonna dice che è la zuppa di avena che finalmente mi fa effetto. Può darsi, ne ho mangiata tanta. E Paul sospirò profondamente, da far crescere chiunque. Spero adesso che ho cominciato di continuare a crescere finché non sarò alto come mio padre. È alto 1,80 m, lo sa, signorina Lavender? Sì, la signorina Lavender lo sapeva. Il rossore delle sue guance graziose si accentuò, prese per mano Paul da una parte e Anna dall'altra e si avviò verso la casa in silenzio. È una buona giornata per gli echi, signorina Lavender? Si informò Paul ansiosamente. Il giorno della sua prima visita c'era troppo vento per gli echi e Paul era rimasto molto deluso. Sì, la miglior giornata che ci possa essere, rispose la signorina Lavender, strappandosi alle sue fantasticherie. Ma per prima cosa dobbiamo tutti entrare a mangiare qualcosa. So che voi due non potete aver fatto tutta la strada fin qui nella faggeta senza che vi sia venuto appetito. E Carlotta IV e io possiamo mangiare a qualunque ora della giornata, il nostro appetito è così compiacente. Così faremo un'incursione nel tinello. Per fortuna è accogliente e ben fornito. Avevo come un presentimento che avrei avuto visite oggi e così con Carlotta IV ho preparato qualcosa. Oh, lei è una di quelle persone che hanno sempre delle ghiottonerie nel tinello, dichiarò Paul. Anche la nonna è come lei, ma non approva gli spuntini tra un pasto e l'altro. Chissà, aggiunse meditabondo, se devo rinunciare a essi fuori casa sapendo che lei non approva. Oh, non credo che avrebbe da ridire dopo una simile passeggiata. È molto diverso, disse la signorina Lavender, scambiando sguardi divertiti con Anna al di sopra dei riccioli bruni di Paul. Credo che gli spuntini siano magari poco salutari, eppure noi li facciamo spesso alla casa dell'eco. Noi Carlotta IV e io viviamo sfidando ogni norma dietetica. Già, già. Mangiamo ogni sorta di cose indigeste ogni volta che ce ne salta il ticchio, di giorno e di notte. Eppure fioriamo come il verde lauro. Ci proponiamo sempre di mettere giudizio quando leggiamo un articolo su un giornale che sconsiglia qualcosa che ci piace. Allora subito lo ritagliamo e lo attacchiamo al muro della cucina in modo da ricordarlo. Ma non so perché, non ci riusciamo. Almeno non prima di aver mangiato quella cosa proibita. Finora, ecco, non siamo ancora morte. Ma Carlotta IV, lo so, ha fatto dei brutti sogni quando abbiamo mangiato frittelle dolci, tartine di frutta secca e dolci alla crema prima di andare a letto. La nonna mi lascia bere un bicchiere di latte e mangiare una fetta di pane e burro prima di andare a letto. E la domenica sera al pane aggiunge la marmellata, disse Paul. Perciò la domenica sera sono sempre contento per più di una ragione. Domenica è una giornata molto lunga sulla strada verso il mare. Nonna dice che per lei la giornata vola e che papà, quando era ragazzo, non si era mai annoiato la domenica. Anche a me non parrebbe così lunga se potessi parlare con i miei amici delle rocce, ma non lo faccio mai perché la nonna non approva di domenica. Così me ne sto parecchio a pensare, ma temo di pensare cose mondane, mentre la nonna dice che dovremmo pensare alle cose della religione. Ma la maestra qui ha detto che ogni pensiero veramente bello è religioso, e non importa a cosa si pensi o in quale giorno si pensi, ma sono sicuro che la nonna ritiene che siano religiosi solo gli argomenti dei sermoni e delle lezioni di catechismo. E quando tra la nonna e la maestra c'è divergenza di opinione, io non so che cosa fare. In cuor mio, Paul si mise una mano sul cuore e alzò gli occhi azzurri molto seri verso il volto comprensivo della signorina Lavendar. Io do ragione alla maestra, ma capisce, la nonna ha allevato il babbo a modo suo e con ottimi risultati, e la maestra non ha ancora tirato su nessuno, anche se aiuta a educare Davy e Dora. Ma non si può dire se verranno su bene o male finché non saranno cresciuti, perciò a volte mi sembra più sicuro seguire le opinioni della nonna. E credo che sia così, convenne Anna solennemente. Comunque immagino che se la nonna e io dovessimo spiegare che cosa realmente intendiamo quando parliamo di pensieri religiosi, scopriremmo che, pur esprimendoci in modo diverso, entrambe intendiamo la stessa cosa. Tuttavia, meglio per te seguire il suo modo di esprimersi, dato che è il risultato dell'esperienza. Bisognerà aspettare per vedere come cresceranno i gemelli, per essere sicuri che anche il mio modo sia valido. Dopo aver mangiato, tornarono tutti in giardino. Qui Paul fece conoscenza con gli Echi, con grande meraviglia e diletto, mentre Anna e la signorina Lavendar sedevano a chiacchierare sulla panca di pietra sotto il pioppo. «Sicché in autunno te ne andrai?» chiese la signorina Lavendar con malinconia. Dovrei essere contenta per amor tuo, Anna, e invece sono terribilmente, egoisticamente addolorata. Sentirò talmente la tua mancanza. Oh, a volte penso che è inutile farsi degli amici. Trascorso qualche tempo escono dalla tua vita e ti lasciano una ferita peggiore del vuoto che esisteva prima della loro venuta. Questo ha l'aria d'essere stato detto dalla signorina Eliza Andrews, non dalla signorina Lavendar. Rimbeccò Anna. Nulla è peggio del vuoto, io non esco affatto dalla sua vita. Esistono cose come le lettere e le vacanze. Carissima, mi sembra che lei sia un po' pallida, ha l'aria stanca. Oh! Oh! Continuava Paul, rivolto a valle e mettendo suoni non tutti melodiosi, ma tutti tornavano indietro trasformati in oro e argento, suoni puri prodotti dagli alchimisti fatati di là del fiume. La signorina Lavendar ebbe un moto d'impazienza con le mani graziose. Sono stanca di tutto, perfino degli echi. Non esistono che echi nella mia vita, echi di speranze perdute, di sogni, di gioie. Sono belli e al tempo stesso beffardi, oh Anna. Faccio male a parlare così quando sono in compagnia. Sto diventando vecchia e non mi si addice. So che sarò molto capricciosa quando avrò 60 anni, ma forse ho solo bisogno di cure. In quel momento Carlotta IV, che era scomparsa dopo lo spuntino, tornò e annunciò che un tratto del pascolo del signor Kimball era tutto rosso di fragole primaticce e che se la signorina Shirley voleva andare a coglierle. Fragole primaticce per il tè! Esclamò la signorina Lavendar. Oh, non sono poi così vecchia come pensavo e non ho affatto bisogno di cure. Ragazze, quando tornerete con le fragole prenderemo il tè qua fuori, sotto il pioppo d'argento. Preparerò tutto, io compresa la panna fatta in casa. Anna e Carlotta IV, di conseguenza, si recarono al pascolo del signor Kimball, un luogo verdeggiante dove l'aria era fresca e fragrante. Oh, com'è bello e fresco qua giù! Mormorò Anna. Sembra quasi di berla la luce del sole. Sì, signora, anche a me. Sembra proprio così anche a me, signorina, convenne Carlotta, che avrebbe fatto esattamente la medesima osservazione se Anna avesse detto di sentirsi come un pellicano in un luogo desolato e selvaggio. Sempre dopo una visita di Anna alla casa dell'eco, Carlotta IV saliva nella sua stanzetta sopra la cucina e cercava davanti allo specchio di parlare e di muoversi come Anna. Carlotta non si illudeva di riuscirvi, ma con la pratica si raggiunge la perfezione, così Carlotta aveva imparato a scuola. Ed ella sperava con il tempo di riuscire a imitare quel suo vezzo d'alzare delicatamente il mento e il rapido balenio degli occhi e quel suo modo di camminare come se fosse stata un ramo agitato dal vento. Sembrava così facile guardando Anna. Carlotta IV ammirava Anna incondizionatamente, non che la ritenesse poi tanto bella. La bellezza di Diana Barry, dalle guance porporine e dai riccioli neri, incontrava di più il suo gusto che non il fascino lunare di Anna, dai luminosi occhi grigi e dal pallido cangiante rosato delle guance. Eppure, preferirei essere come lei piuttosto che essere carina, disse ad Anna in tutta sincerità. Anna rise e di questo omaggio che le veniva reso fece tesoro del dolce e gettò via l'amaro. Era ormai abituata a questo tipo di complimenti. L'opinione pubblica, infatti, non era mai concorde sull'aspetto di Anna. Gente che l'aveva sentita definire bella quando la conosceva restava delusa, mentre chi l'aveva sentita definire bruttina quando la vedeva si domandava dove mai gli altri avessero gli occhi. Anna stessa non avrebbe mai pensato di poter aspirare a una qualche bellezza. Quando si guardava allo specchio, tutto quel che vedeva era un visino pallido con sette lentiggini sul naso. Lo specchio non le rivelava mai il gioco sfuggente, sempre variabile, dei sentimenti che andavano e venivano sui suoi lineamenti come una rosea fiamma che la illuminasse dall'interno, o il fascino del sogno e della risata che si alternavano nei suoi grandi occhi neri. Pur non essendo bella, nel senso stretto della parola, Anna possedeva però un fascino elusivo e una distinzione di portamento che davano a chi la guardava un piacevole senso di compiacimento per quella sua dolce rotondità di fanciulla, ricca di grandi potenzialità. Chi la conosceva meglio sentiva, senza rendersene conto, che la sua maggiore attrazione stava in quell'atmosfera che la circondava e in cui si avvertiva un futuro luminoso. Pareva che camminasse sempre nell'attesa di qualcosa che stava per accadere. Mentre coglievano le fragole, Carlotta IV confidò ad Anna i suoi timori riguardo alla signorina Lavendar. La piccola domestica, dal gran cuore, era sinceramente preoccupata per lo stato della sua adorata padrona. Oh, la signorina Lavendar non sta bene, signorina Shirley. Sono sicura che non sta bene, anche se non si lamenta mai. Non è più lei da parecchio, signorina, dal primo giorno che lei e Paul siete venuti qui. Sono sicura che ha preso freddo quella sera, signorina, dopo che lei e Paul siete andati via e uscita a passeggiare a lungo in giardino, dopo il tramonto, e aveva solo uno scialletto. C'era un mucchio di neve per la strada e sono sicura che si è presa un'infreddatura. Da allora ho notato che fa tutto come senza voglia. Sembra che nulla la interessi, signorina. Non fa più finta che vengano ospiti, né prepara per loro, né fa altro, signorina. Sembra rallegrarsi un pochino solo quando viene lei. Carlotta IV abbassò la voce, come se stesse per confidare il sintomo terribile e misterioso di qualche strana malattia. E il segno peggiore di tutti, signorina Shirley, è che non si arrabbia più quando rompo le cose. Ieri, per esempio, signorina Shirley, ho rotto la coppa verde e gialla che è sempre stata sulla libreria. Sua nonna l'aveva portata dall'Inghilterra e la signorina Lavendar ci teneva moltissimo. La stavo spolverando con cura, sa, signorina Shirley, e mi è scivolata di mano. Prima che potessi afferrarla, si è frantumata in migliaia di pezzi. Lascio pensare a lei com'ero dispiaciuta e spaventata. Mi sono detta che la signorina Lavendar mi avrebbe rimproverata a non finire e l'avrei preferito piuttosto che vederla entrare, guardare a malapena il malfatto e dire: non importa, Carlotta, raccatta i pezzi e gettali via. Solo questo, signorina Shirley, sa? Raccatta i pezzi e gettali via. Come se non fosse stata la coppa di sua nonna portata dall'Inghilterra. Oh, non sta bene e io sono molto preoccupata, ci sto male. Non ha nessuno che le badi tranne me. Gli occhi di Carlotta IV si riempirono di lacrime. Anna diede un colpetto affettuoso sulla sua piccola mano bruna che reggeva la tazza rossa. Credo che la signorina Lavendar abbia bisogno di un cambiamento, Carlotta. È troppo sola qui, non possiamo convincerla ad andarsene per qualche giorno. Carlotta scosse la testa sconsolata. Non credo, signorina Shirley. La signorina Lavendar detesta andare a fare visite. Ha solo tre parenti che ogni tanto va a trovare e dice che lo fa proprio per dovere di famiglia. L'ultima volta, quando è tornata a casa, ha detto che non voleva più saperne di doveri di famiglia. Sono tornata a casa innamorata della solitudine, Carlotta, mi ha detto, e non voglio più allontanarmi dal mio giardino, dalla mia vite e dal mio albero di fico. I miei parenti fanno tutto il possibile per farmi invecchiare, il che ha delle brutte conseguenze su di me. Solo questo ha detto, signorina Shirley, ha delle brutte conseguenze su di me. Perciò credo che non servirebbe a nulla tentare di convincerla a fare qualche visita. Beh, vedremo quel che si può fare, disse Anna con decisione mentre deponeva l'ultima fragola nella sua tazza. Appena avrò le vacanze, verrò a passare qui da voi un'intera settimana. Ogni giorno andremo a fare una scampagnata e faremo finta di fare ogni sorta di cose interessanti. Vedremo se si riesce a far tornare il buon umore alla signorina Lavendar. È proprio quello che bisogna fare, signorina Shirley, esclamò Carlotta IV in estasi. Era contenta per amore della signorina Lavendar e anche per conto suo. Infatti, con un'intera settimana a disposizione per studiare Anna, sarebbe sicuramente riuscita a imparare a muoversi e a comportarsi come lei. Quando le ragazze tornarono alla casa dell'Eco, trovarono che la signorina Lavendar e Paul avevano trasportato il piccolo tavolo quadrato dalla cucina nel giardino e avevano preparato tutto per il tè. Nulla mai ebbe sapore più squisito di quelle fragole con la panna, mangiate sotto un gran cielo azzurro, tutto rappreso in piccole nubi fioccose. E tra le lunghe ombre del bosco con i suoi fruscii e i suoi mormorii. Dopo il tè, Anna aiutò Carlotta a lavare le tazze in cucina, mentre la signorina Lavendar sedeva con Paul sulla panca di pietra e ascoltava i suoi racconti sugli abitanti delle rocce. Era una buona ascoltatrice, la dolce signorina Lavendar, ma alla fine poi si accorse a un tratto che ella aveva perso ogni interesse per i marinai gemelli. Signorina Lavendar, perché mi guarda in quel modo? Le chiese stupito. Come ti guardo, Paul? Come se attraverso di me stesse guardando qualcuno che le ho fatto venire in mente, disse Paul, che aveva a volte tali misteriosi lampi d'intuito che era meglio non avere segreti quando lui si trovava nei dintorni. Mi fai venire in mente qualcuno che conoscevo tanto tempo fa, disse la signorina Lavendar con voce trasognata. Quando era giovane? Sì, quando ero giovane. Ti sembro molto vecchia, Paul? Lo sa che non riesco a decidermi, disse Paul con tono confidenziale. Dai capelli si direbbe di sì. Non ho mai visto un giovane con i capelli bianchi, ma gli occhi quando ride sono giovani come quelli della mia bella maestra. Sa cosa le dico, signorina Lavendar? La voce e il tono di Paul si erano fatti solenni come quelli di un giudice. Le dico che lei sarebbe una magnifica mamma. Ha negli occhi proprio lo sguardo che ci vuole, lo sguardo che aveva sempre la mia mammina. Penso sia un vero peccato che non abbia bambini suoi. Oh, ma io ce l'ho un bambino, un figlio della fantasia, Paul. Oh, davvero? E quanti anni ha? pressappoco la tua età, credo. Dovrebbe essere più grande di te, perché l'ho sognato tempo prima che tu nascessi. Ma non lo lascerò crescere più di 11 o 12 anni, perché se lo facessi un giorno finirebbe per crescere del tutto e allora lo perderei. Lo so, annuì Paul. È questa la bellezza delle persone immaginarie. Rimangono dell'età che uno vuole. Lei, la mia maestra e io siamo le uniche persone al mondo, che io sappia, che hanno a che fare con amici immaginari. Non è una fortuna e non è strano al tempo stesso che ci si conoscano i tre? Ma io credo che le persone come noi finiscono sempre col ritrovare i propri simili. La nonna non sa che cosa sia un amico immaginario e Mary Jo pensa che io sia un po' tocco dato che ce l'ho. Eppure credo che sia splendido averli. Lei lo sa bene, signorina Lavendar. Mi racconti tutto del ragazzo del suo sogno. Ha gli occhi azzurri e i capelli ricci. Entra furtivo e mi sveglia con un bacio ogni mattina. Poi per tutto il giorno resta a giocare in giardino e io gioco con lui. Sapessi a che giochi giochiamo, facciamo le corse, parliamo con gli echi e io gli racconto delle storie. E quando viene il crepuscolo. Lo so, l'interruppe con foga Paul. Lui viene a sedersi accanto a lei, così, perché se ha 12 anni è troppo grande per sederle in grembo, e appoggia la testa sulla sua spalla. Così. E lei gli passa le braccia attorno al corpo e lo tiene stretto stretto, e posa la guancia sulla sua testa. Sì, proprio così, signorina Lavendar. Anna, quando uscì di casa, trovò i due, l'uno stretto all'altro, e qualcosa sul viso della signorina Lavendar le suggerì quasi di non disturbarli. Temo che sia l'ora di andare, Paul, se vogliamo arrivare a casa prima che faccia buio. Signorina Lavendar, ho intenzione di invitarmi alla casa dell'eco per un'intera settimana, e presto. Oh, se vieni per una settimana, ti terrò qui almeno per due, la minacciò sorridendo la signorina Lavendar.